Friuli nel mondo. 152esima trasmissione dedicata agli emigrati. La Solingen friulana. Con lo scampanio festoso della vetusta torre di San Mauro e con i motivi delle musiche popolari friulane che inondano la piazza architettonica di echi armoniosi, ci appare Maniago, la piccola Solingen italiana, operosa e ricca di arte e di storia. La vasta e graziosa piazza, a forma di quadrilatero, nel cui centro risalta una cinquecentesca fontana, è il cuore storico e caratteristico di Maniago. Essa è legata da tre armonici cardini architettonici del Palazzo dei Conti, verso il quale lo sguardo viene attratto dal focoso leone frescato dall'Amalteo, dall'antica loggetta comunale a tre arcate che ravviva la memoria dei caduti in guerra, e dal Duomo del XV secolo, in stile gotico-romanico, ove si ammirano opere dell'Amalteo e uno stupendo fonte battesimale del Pilacorte. La storia di questa cittadina, anticamente chiamata Cellina, si perde nella notte dei tempi e pochi ruderi segnano il luogo ove sorgeva l'antico castello dei signori di Maniago. Ma alla storia e all'arte s'accomuna l'atavica perizia dei coltellinai. Lucidi più che argento, escono dalle mani nere e callose di artigiani legati da padre in figlio alle officine e vanno per il mondo coltelli e forbici, pinze e spatole, temperine e cazzuole, bisturi e trinciapolli e tanti oggetti indispensabili alle massaie, alle industrie, ai chirurghi. Germano Beltrame, discendente di una generazione di Fabris, si ispira al rombo della propria officina per sciogliere un inno al fabbro di Maniago. L'acqua del Colvera scende serena, narrando sempre la cantilena al vecchio fabbro coltellinaio. T'aiuto io a temprar l'acciaio, tu dei coltelli sei re, sei mago, fierezza e gloria sei di Maniago. Batte il martello allegramente sopra l'incudine tanto paziente, l'eco risponde da mane a sera nella fucina sì tetra e nera che assomiglia all'antro d'un drago, ma che è storia e onor di Maniago. L'acqua del Colvera scende serena, narrando ancora la cantilena al nuovo fabbro coltellinaio, lavoratore dal cuore gaio, che nel travaglio, oppur nello svago, tutto il suo mondo trova in Maniago. E lo svago, dopo la quotidiana fatica, è spesso costituito dal canto. Thank you. Si può dire che la poesia si annidi nella natura stessa del paesaggio, folto di pometi e di vigneti, biancheggiante di chiese e di case, crescente di anno in anno per virtù degli emigrati che sono legione. Ma ciò nonostante, le attività industriali, artigiane e edili hanno avuto uno sviluppo che sa di miracoloso. Le vecchie officine della Solingen friulana sono oggi attrezzate con i macchinari più moderni ed efficienti. I tempi infatti corrono e già l'ente regione è all'opera per dare a tutta la zona maniaghese possibilità di maggiori conquiste e agli abitanti una vita migliore in un non lontano avvenire. A questo sviluppo hanno abbondantemente contribuito gli emigrati. Essi infatti non hanno mai dimenticato il cielo del Friuli. Ne è valida conferma il generoso concorso per il nuovo ospedale civile di Maniago, per il magnifico asilo di Meduno, per il centro di istruzione professionale Carlo di Giulian di Arba, per la scuola mosaicisti di Spilimbergo e per tante e tante altre opere. Era ed è quel cielo che i figli di Poffabro e di Frisanco, dei due tramonti, di Cavasso Nuovo, di Fanna e di Sequals, di Barcis, di Claut e di Cimolais, sognano nelle contrade lontane. Digo, is la blue and green. Ed ora, alle migliaia di emigrati del mandamento di Maniago, sparsi un po' in tutto il mondo, un brindisi col sapido vino maturato negli irrigati magredi della pianura di Sequals. Nel brindisi il vivo desiderio, l'affettuosa certezza di risalutarli periodicamente. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.